fossi yo, y en el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Sembra oggi che una delle maggiori difficoltà che abbia il nostro paese nella rappresentazione di se stesso è dare una confezione degna, una confezione interessante, appetibile al proprio passato epico. È molto difficile, ci sono grandi crisi nella lettura che dà il nostro paese attraverso la fiction, attraverso il cinema, lettura della contemporaneità e lettura anche di alcuni momenti storici. C'è una tendenza nel celebrare o nel denigrare o riscrivere o raccontare o sovrascrivere delle letture precedenti, di periodi storici più o meno recenti che ancora vivono nella ambiguità dell'interpretazione o della difformità dei punti di vista, ma esiste un'incapacità totale a rimmaginarci quello che è il nostro passato, passato glorioso, passato epico. Mi viene da pensare che le ultime rappresentazioni, ad esempio, della epopea dell'antica Roma o della Roma imperiale, della Roma dei Cesari, la più vivida e importante rappresentazione è una fiction seriale prodotta da americani, sono venuti a Cinecittà a produrre una storia di Roma bellissima, meravigliosa, una storia fatta benissimo che noi non siamo più capaci di fare. Oppure il famoso film Gladiatore, che tanto poi ha inciso anche nella quotidiana trasformazione del proprio vissuto in qualcosa di meraviglioso. Il mito del gladiatore, quante generazioni di coatti romani. Ricordo che una edizione del Grande Fratello era completamente corroborata da questo immaginario del gladiatore. Perché? Perché hanno visto il film, perché non era una cosa che riguardava noi. Noi la rappresentazione più calzante al nostro status dell'immaginario, della sensibilità rispetto al nostro presente, al nostro passato, alla nostra maniera di trasformare l'immaginifico in un prodotto fruibile a tutti, sono i gladiatori tarocchi che stanno davanti al Colosseo, vestiti con le scarpe di plastica, che si fanno dare pochi euro dai turisti giapponesi per farsi una foto assieme. Potrò annodarti un viluppo che nessuno più scioglierà. Spada Ercole, è di pietra, fuggi prima che ti uccida. Di pietra sei e la pietra ti distruggerà. Voi direte, quello che ci fai ascoltare adesso appartiene a un nostro passato kitsch, in un momento particolare in cui noi con tanta cartapesta e tanti bei culturisti che facciano fare la bavetta a tanti bei registi abbiamo costruito un genere di cinema che oggi abbiamo rinnegato, dimenticato, che a meno di 50 anni non ricorda il peplum, non ricorda le meravigliose sfide fra Ercole, tra Maciste, tra i Titani, tra le contaminazioni più fantasiose. Improvvisamente l'epica, la narrativa, le fantastiche saghe venivano mischiate dalla fantasia di registi e di autori che vogliono mettere personaggi mitologici con personaggi di fantasia, con personaggi del passato e del futuro, gli alieni contro i gladiatori e via dicendo. Beh, questa mattina con il nostro ormai consueto analista della lettura cinematografica, la nostra realtà, che è Giuseppe Sansonna, che saluto. Ciao Giuseppe. Buongiorno. Analizzeremo un genere prettamente italiano, il peplum, chiamato peplum proprio dall'accessorio di vestiario, doveva ricordare in qualche maniera l'antica Roma o un mondo classico di cui si avevano confini piuttosto imprecisi, quindi bastava mettersi uno straccio addosso, una sorta di lenzuolo annodato, e già si entrava in un'epoca fantastica. Ecco, come nasce il peplum in Italia? Il peplum in realtà ha un antecedente culturale importante, molto alto, molto sottile, che nel 14 ci fu Cabiria di Pastrone con didascalie scritte da D'Annunzio, che inventò il personaggio di Maciste, che non esisteva nella mitologia né romana né greca, né tanto meno greca. Chi era Maciste? Maciste era questo eroe buono, l'uomo più forte del mondo, ed era Bartolomeo Pagano, che era un camallo di Genova, un facchino, uno che portava grossi carichi, che fu introdotto al mondo del mito, del cinema, e anticipò, se vogliamo, nei tratti, nella mascella volitiva, nel fisico, il Mussolini che sarebbe venuto. Insomma, fu un'intuizione poetica prima della dittatura. Quindi si allucinò l'uomo forte, l'uomo ipervirile, il quasi eroe, attraverso il cinema. Il cinema fu profeta di una realtà, era il superomismo, una realtà iconografica, poi sì, il niccianesimo di massa che entrava nel mondo. Però lì c'era ancora un antecedente colto, o che quantomeno si pretendeva colto, una radice immaginifica. Se D'Annunzio aveva pensato, aveva una sua giustificazione. Certo, aveva colto degli umori del suo tempo. Lo stesso Griffith si ispirò per fare poi Intolerance al Cabiria di Pastorino. Però poi negli anni 50 ci fu invece la ripresa di massa, e quando i cinema diventarono refugio, un peccatorum per le grandi masse schiamazzanti, sudate. Allora, il peplum diventa un modo per mostrare, come dicevi tu prima, più carne possibile di queste belle schiave in sandali. C'era una sorta di feticismo di massa. Diciamo che era bivalente, perché anche la figura del culturista unto e lucido ricordava l'iconografia di quelle riviste anni 50 e 60 che andavano molto negli Stati Uniti. È stato fatto anche un film sulla storia di un editore che pubblicava queste riviste con uomini nudi e muscolosi, che erano una delle icone del mondo gay sommerso di allora. Il gay sommerso, nascosto, camuffato, sposato, coniugato e via dicendo, trovava delle ispirazioni fantastiche in queste riviste di culturisti. Potevi comprare tranquillamente una rivista con uomini nudi, fingendo di essere un interessato alla vigoria fisica, ecco. Certo, quei corpi levigati, depilati, quelle cotonature, effettivamente erano molto sospette, però diciamo il pubblico si disinteressava a questi giuggioloni che si agitavano spostando grossi blocchi di cartapesta spacciati per massi. Si interessava invece a Silva Coscina, a queste schiave meravigliose che invece accendevano la fantasia onirica, anche perché i colori erano truccate, pettinate anni 60, però loro meno ridicole, insomma, dei loro. C'è per esempio la cosa di Bart, che scrive sui romani al cinema, su questa verosimiglianza che è strepitosa. Lui parla del Giulio Cesare di Mankiewicz e dice che i romani sono distinguibili tutti per questi capelli tirati con la brillantina, avanti, con questa frangetta alla romana, dice. C'è Louis Callern che fa Giulio Cesare, che si vede che è consumato dal Bourbon, da anni di film polizieschi, che fa Giulio Cesare completamente improponibile, no? C'è un po' una grande intuizione di... E lo stesso avveniva in questi peplum, in questi eroi, non un po'... Che è il taglio tipico che ti fanno i barbieri pietosi quando uno comincia a stempiare. Il primo passaggio fino alla rasatura finale ti fanno questa frangettina alla romana, che ti faccio un taglio moderno. Io ho degli amici, mi ricordo che a un certo punto venivano al lavoro sta frangettina, cioè, è un piccolo inizio di riporto, sì, ecco. Stile impero, un po' napoleonico, questo richiamo a nobilitare appunto la perdita dei capelli. E quindi c'erano questi eroi levigati, questi eroi gonfi di culturismo, che effettivamente erano molto sospetti, come dicevi tu prima, che lanciavano sempre dei macigni di cartapesta contro nemici, erano sempre invincibili. E poi c'era un uso del primo piano violentissimo, alternato a questi spazi desertici, a questi grandi templi, no? Che è un montaggio alla Eisenstein, fortissimo, di grande impatto, spettacolare. Le colonne sonore, mi raccontava mio padre, nei cinema di Canosa di Puglia, sparate a tutto volume, che atterrivano, schiacciavano i ragazzi sulle sedie. E poi c'era un altro espediente nella magia del cinemascope. Io da piccolo questa parola mi dava sempre dei sensi di ambiguità. Cinemascope erano questi schermi in orizzontale, giganteschi, che ti permettevano di dare le grandi scene di massa. Il problema era quando li riportavano in televisione, ancora non c'era l'adattamento del formato, e vedevi le persone allungate, sembrava una cosa dei quadri di El Greco. Prego. Oppure vedevi ampie porzioni di film tagliate dall'accetta, perché appunto ne prendeva solo una porzione. No? Questo tu parli delle domeniche post-prandiali, nell'onirismo dopo il pranzo luculiano, tipico della domenica, uno si lascia avvolgere da questi suoni, da questi colori strepitosi, che poi Bava, che era uno dei grandi registi di questo, infatti abbiamo sentito prima Ercole al centro della Terra, portava gli stessi colori, gli stessi filtri ottici che aveva usato per il Cosmo, li adattava semplicemente con delle musiche appunto ad hoc, li adattava invece al mondo del peplum. Sì, perché andavano pari passo queste due letture, la lettura del futuro come se lo immaginavano, sì, sì. I film sul cosmo, sugli extraterrestri, costruiti anche quelli con molto ghiaccio secco, molto fumo e molta cartapesta, ancora non esisteva penso il polistirolo come materiale, sì, scenografico, almeno non era usato, e i film che invece reinterpretavano il passato. Nello stesso set il presente usciva e entrava contemporaneamente dal passato e nel futuro. 800 24 00 24, attingete ai vostri ricordi nostalgici, vi ricordate anche voi quando andavate nel cinemino dei preti, vi facevano vedere i film di Macister, che erano quelli consentiti, mettendo la mano davanti al proiettore quando si vedeva Silvia Coscina, quando si vedeva qualche schiava discinta. Avete ricordi personali legati a questo genere cinematografico, al genere degli antichi romani, al genere degli eroi, quando ancora non esistevano i supereroi. Oh Dio del male, il grande drago divora la luna, il mio destino è prossimo a compiersi. Il sangue di Rhaenyra sarà il mio sangue, e io dominerò in eterno in tuo nome. Eterno sarà il dolore di Ercole, ed eterna sarà la notte per la donna che egli ama. Oh Dio dell'Averno, dà pace alla terra. Fa che mio Zotide non abbia sacrificato in vano il suo amore. Ecco qua cosa abbiamo ascoltato, Giuseppe. Questo è Ercole al centro della terra, che è forse uno dei film più belli di questo genere. Qui abbiamo sentito la voce di Lico, che è lo straordinario Christopher Lee, che è questo sacerdote che sta al centro della terra. Ecco, c'è una contrapposizione in questi film fra male e bene assoluta, molto netta, molto distinta. Christopher Lee era l'incarnazione pura del male. Era la riscrittura della mitologia classica con delle contaminazioni improbabili. Sì. C'erano cosmologie assiro-babilonesi, c'era la Grecia classica, c'era la cultura romana, c'era l'ellenismo, c'era tutto, insomma, prendevano l'enciclopedia, giravano un po', trovavano un po' di dei e un po' di eroi e mettevano tutto assieme. Il melange del sincretismo, che sotto cui veniva la storia, veniva il mito, tutto mescolato e tutto riproposto. Poi arriverà la New Age, ma sarà un'altra cosa. Sì. Questo era un sapore più autentico, tutto sommato. Abbiamo sentito la voce di Nando Gazzolo, che dava a Christopher Lee una presenza di male puro, l'essenza del male puro. Qui c'è la grandezza e l'intuito di Bava, che con i suoi colori, con i suoi effetti speciali, tutt'altro che ridicoli, nonostante la povertà di mezzi che creavano, hanno creato un immaginario di cui si sono alimentati Tim Burton e tutti gli altri, tutti gli americani lo adorano per le sue intuizioni visive, plastiche, che erano veramente da cinema, anche d'avanguardia se vogliamo, pur in un cinema popolare di massa. Secondo te avevano anche la pretestuosità, o perlomeno erano percepiti come una sorta di supporto didattico, il fatto che si parlasse qualcosa che assomigliasse molto vagamente alla storia, al fatto che ancora è un paese in via di alfabetizzazione, dava l'idea che comunque, infatti questi film erano molto proiettati nelle parrocchie, nei dopolavoro, a scuola una volta l'anno si portavano 100 lire, c'era il filmino, era sempre un film di questo genere, quando non era un film di quelli comici ancora di pre-Totò, capito, delle riletture di Gianni Pinotto, le cose terrificanti, almeno per il tempo, lontane dalla nostra cultura. Qui si aveva l'impressione di lambire qualcosa che avesse bene o male a che fare con la cultura. Sì, che si aveva l'impressione di nobilitarsi guardando questi film. In realtà, come vi ho detto prima, qui la storia vanisce nell'inattendibile, tutto frana, tutto si va all'inseguimento di belli d'oro, si parte in imprese argonautiche, Ercole incontra Teseo e tanti. Ce n'è uno famoso, il Colosso di Rodi, mi ricordo, sì, che mi impressionò tantissimo, c'è la ricostruzione di questa meraviglia del mondo. E di che Colosso di Rodi è di Sergio Leone, appunto, prima di passare poi a fare i western. Infatti Sergio Leone veniva da quel mondo lì, suo padre era anche un grande regista del muto di questo genere di film, Roberto Roberti. Lui prima di fare Per un pugno di dollari stava facendo Le Aquile di Roma, lo stava scrivendo proprio a Piazza del Popolo, e uno gli disse: guarda che Kurosawa ha fatto un film di samurai da cui si può copiare un western. E da lì nacque Per un pugno di dollari. Cari sette samurai? Era Joimbo. Ah, Joimbo. Da cui li fece Per un pugno di dollari. Poi con Kurosawa vide il suo film e disse: grazie per lo splendido western che lei ha copiato dal mio film di samurai. Adesso facciamo un bel processo. Alla fine del processo Leone dovette pagargli dovette concedergli Per un pugno di dollari per lo sfruttamento per l'Oriente a Kurosawa. E Kurosawa ha guadagnato più da quello sfruttamento che da tutto il suo cinema. Quindi la contaminazione fu accertata da un tribunale? Sì. Addirittura mi raccontarono che portarono come testimone Arlecchino, servo di due padroni, per dimostrare che Per un pugno di dollari l'avevano preso da quello e non da Kurosawa. Poi è molto singolare. Apro una parentesi, una digressione, visto che le persone tardano a dare un contributo chiamando all'800 24 00 24, evidentemente il peplum, evidentemente gli eroi unti del passato, evidentemente le ancelle, le schiave non fanno parte dell'immaginario, le persone ci ascoltano, a noi non ci interessa. Dicevo, è molto interessante quello che diceva Sansonna, perché dimostra un precedente di contaminazione della cultura giapponese sulla nostra. Allora, il Giappone, che era appena uscito dalla guerra, che aveva una velocissima ricostruzione dal punto di vista economico, dal punto di vista della propria identità, era stato raso al suolo dalla bomba atomica, quindi nell'identità nazionale, pensando ai Godzilla come i dinosauri mutanti che erano venuti fuori da qualcosa che nemmeno ancora riuscivano a concepire, era stato raso da qualcosa che non lasciava traccia. Lentamente ricostruiva il suo immaginario. Oggi il nostro immaginario è contaminato in maniera eccezionale dalla cultura giapponese, dalle PlayStation, dai manga, da tutto, i gadget elettronici e via dicendo, ma già un pugno di dollari, cioè il western all'italiana, che sembrava la rilettura nazionale che ci affrancava dalla contaminazione statunitense, in realtà era inconsapevolmente contaminato dal Giappone. Era perfettamente ricalcato su Joimbo, anche nelle inquadrature, nei tempi, ovviamente nella trama. Era talmente smaccata che poi il tribunale la accertò. C'erano queste. E infatti c'è questo mondo molto maschile, molto anche rituale nei suoi gesti, nei suoi tempi, in questi primi piani, in questo uso degli spazi, degli ampi spazi, della musica. Insomma, c'era. È un samurai, in fondo, Clint Eastwood, che arriva solitario in questo paese terribile, sperduto, e arriva a mettere l'una contro l'altra queste due famiglie, a vendersi al soldo dell'una e dell'altra, cercando un paese in cui non ci siano padroni, come dice. Sto ancora cercando un paese in cui non ci siano padroni, dice. Sentiamo Roberto, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Guardi, volevo semplicemente, purtroppo mi è sfuggito il nome dell'ospite che ha in trasmissione. Giuseppe Sanzonna è il nostro supporter quando parliamo di cinema. È un regista, è un volevo esperto. Dirle che semplicemente che non concordo, per carità, è personalissimo il parere. No, siamo non qua. Concordo pienamente sul discorso di si parlava prima di mitologia, di Ercole al centro della Terra, che era un grande interprete, quello era Regge Park, mentre io ritengo che i film mitologici più belli in assoluto erano Le fatiche di Ercole con la regina di Lidia, che furono interpretate da Steve Reeves, e praticamente fu l'esordio della mitologia alla fine degli anni 50, inizio 60, e da lì in poi c'è stata praticamente una continua imitazione di quei film. Allora resti un attimo in ascolto, sì. Poi continuo a parlare con lei. Regnare senza il vello d'oro è molto difficile, perciò la gente inventa tante calunnie, ma mio padre è al di sopra di ogni sospetto. È giusto che tu lo creda. Anche tu vieni a perseguitarci, a farmi soffrire. Vieni, ti accompagnerò io. Sai, non valgo molto come carpentiere. Ti porto con me a Yolko sul mio cavallo, ti prego, sta facendosi notte. Quanto odio nei tuoi occhi. Sei cresciuta male in quella casa, tra cattivi ricordi, senza un amico. Ma io ti aiuterò, ti proteggerò, te lo giuro. Roberto, sì. È questo? Sì, quello è il questo è, è Le fatiche di Ercole del 58 di Francisci. Esattamente, con Silva Coscina. Lei quanti anni aveva quando lo vide per la prima volta? Nel 58 avevo 8-9 anni, insomma. La sento commossa. devo dire di sì, perché sono ricordi stupendi. Intanto perché a quell'età c'è l'attrazione per il mito della forza. Poi magari uno, crescendo, si accorge che il fisico serve anche per altre cose, perché ti facilitava nell'aggancio con le ragazze, ma insomma voglio dire, ha pilotato un pochino il mio modo di fare. Dai, guardi, quelli erano gli anni, aumenterò la sua commozione degli elementi struggenti, in cui nei giornalini tipo l'Intrepido si vendevano le miracolose pomate per farsi crescere i muscoli che tutti compravamo. Vede che ho toccato. La pomata Ursus, che si vendeva per corrispondenza, costava poche centinaia di lire, è una pomata che ci si spalmava sui muscoli e si diventava muscolosi. Tutti l'abbiamo comprata e nessuno ha avuto, naturalmente. No, assolutamente, ne ho fatto uso anch'io. Assieme a quell'altra pomata per avere un torace villoso. Ora, oggi che tutti si depilano con la lametta, con le creme, è giusto sapere che due generazioni fa i ragazzini compravano sempre tramite corrispondenza, assieme gli occhiali per raggi X, le scimmie spaziali, se non ricordo, le scimmie di mare e via dicendo, questo tipo di pomate, la pomata Ursus per avere i muscoli e la pomata perché si vedeva un uomo con tutto il torace villoso, le donne che lo abbracciavano, dice, le donne cercano un uomo peloso, e ci mettevamo queste pomate o con la lametta ci tagliavamo quei quattro peletti che ci avevamo sullo sterno, pensando che questo ci avrebbe reso virili. Ha la voce rotta dal pianto, quindi dobbiamo salutarci. No, si figuri, mi ha fatto immensamente piacere. Quando posso ascolto sempre la vostra trasmissione. Va bene, si faccia coraggio, ci continuiamo fra un istante dopo le informazioni della borsa, vedendo che finalmente si è svegliato il pubblico su questi pregnanti ricordi di vigoria fisica. Melog 2.0. Ercole, figlio mio, ci sono due strade davanti a te. Quella a sinistra è diretta verso la virtù e quella a destra verso il piacere. Ho capito, padre. Allora vado a destra. Ercole, la virtù è a sinistra. Ma, padre mio, scelgo io o scegli tu? Per anni ho seguito la via della virtù. Adesso ho deciso di andare verso il piacere. Il regno di Lidia, dicono, è famoso per le sue fanciulle. Attento, Ercole. Se ti pentirai della tua decisione, non invocare il mio aiuto, perché io non te lo concederò. Con le donne, padre mio, non credo di aver bisogno di aiuto. Grazie lo stesso. Non avertene a male. Beh, una meraviglia qua, Ercole, che sceglie la via della mano destra, che è la via del piacere. Il padre dice no, devi andare a sinistra. Qua già entriamo in altro regno, Giuseppe Sanzonna. Sì, stiamo scivolando già verso la presa in giro. L'autoparodia. L'autoparodia, questo era un film di Capitani che nasceva già con l'idea di autoparodiarsi. Addirittura qui venivano messi tutti insieme Ercole, Sansone, Maciste e Ursus Invincibili dal 64. Ma Ursus è un altro parto. Sì, sì, Ursus era un altro di questi autogenerati dal mondo della fantasia degli sceneggiatori dell'epoca che inserivano nuovi eroi, sempre tutti legati al culto della forza fisica, a questi bicipiti levigati, esplosi, tutti sottratti a palestre di culturismo, in realtà, come Lou Ferrigno, Steve Reeves, Reg Park, apparteneva a questo mondo qua, superomismo nicciano. Sì, però non era importante tanto che sapessero recitare, avevano sempre tre pose praticamente. Beh, c'erano quasi brechtiani nell'assenza di recitazione, cioè erano delle macchine, dei golem, contrapposti invece ai cattivi che come al solito erano attori più interessanti, vedi Christopher Lee, ma anche Massimo Serato, appunto sottratto alla dolce vita, ad altro genere di film, e condotto in questi affari sacerdote, sempre con le voci di Nando Gazzolo, Emilio Cigoli, doppiatore di Vincent Price, di Brando, che conferivano un tono appunto storico, austero, nobilitante a questo cinema. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Io avrei due considerazioni rapide da fare. La prima è questa. Io credo che la tipologia di film, i peplum, riempissero un po' un buco lasciato da quella cinematografia di regime che tutto sommato era didattica, era maestosa, era gigantesca. Fatta di aviatori, anno, di soldati, quelle cose lì. Dice. Esattamente, che per qualche anno dopo la fine del regime si era un po' perduto, perché c'era il neorealismo, qualcosa di spiccio, ma tutto sommato la gente voleva vedere ancora qualcosa di... Qualcosa di veramente pop, autenticamente pop. Esattamente. La seconda cosa che mi colpisce nel rivedere questi film è il modo con cui facevano a botte, cioè il momento dello scontro. Normalmente quello che accade è che vediamo l'eroe del caso, il maciste o l'ercole del caso, che tendenzialmente spingono l'avversario con le mani basse, prendendolo più o meno alla vita. E perché erano lottatori di lotta greco-romana. Esattamente, forse. Mentre oggi in tutte le, diciamo, gli scontri che vediamo sempre qualcosa che viene un po' derivato dalle arti marziali. Beh, ma scusi, lei non può ignorare un frammento fondamentale, che da lì a 10 anni arriveranno i film di Bruce Lee e tutta la paccottaglia cinese sul kung fu. Esattamente, sì. Sì, ma anche noi ragazzi, allora combattevamo e lottavamo alla rozza. In quel modo lì. Sì, mi ricordo si diceva facciamo a botte, facciamo a lotta, facciamo a pugni, quando ci si sfidava, che facciamo a pugni o a lotta, che praticamente poi era la stessa cosa. A pugni era darsi le spinte, a lotta era prendersi come maciste e cercare di buttarsi per terra. Da un certo periodo in poi, quando cominciano ad arrivare i film di Kung Fu, cambiava completamente, si dava il doppio calcio girato, ci si costruiva il nunchaku con i pezzi di legno, improvvisamente... Anzi, forse ancora prima, i film di 007 ci insegnarono il famoso colpo di karate sulla nuca che uccideva. Sansonna, integriamo queste mie letture superficiali. Sì, sì. Le lotte di Maciste, di Ursus, erano una convenzione ormai consolidata. Si potrebbe dire che tutti questi film erano lo stesso film e proponevano lo stesso tipo di lotta, appunto una lotta che esibiva i muscoli, che esibiva come se fosse l'Ercole del Canova, Reg Park, no? Che poteva con queste rotazioni, con queste spinte, mostrare tutta la magnificenza del... Delle corpo. Striscioline di sangue appena percettibili sulle spalle, decorative, comunque decorative, calligrafiche, era una sorta di tatuaggio che impreziosiva ulteriormente questi corpi depilati, levigati, scultori, che abbiamo detto a cosa e quando usavano armi da taglio, in realtà non si dà mai lo sbudellamento, sentiva il rumore della spada, sì. Si vede, ah, così, e non si vede mai il sangue, certo. Quasi mai. Era tutta una citazione, appunto, cioè, il massimo, non c'era verosimiglianza. In effetti, come diceva l'ascoltatore, rispetto al neorealismo si andava in tutt'altra direzione. Era un mondo immaginario completamente ricreato, una sorta. Poi c'era il lancio, diciamo, del capitello romano, del macigno, sì, quello sì, era molto. La colonna dorica scagliata sulla schiena di qualcuno, no? In questi templi giganteschi che venivano continuamente riciclati di film in film, ormai ne avevano costruito uno e poi lo usavano. E qual era il set? C'è una possibilità di ricostruire quelli che erano i luoghi in cui si rappresentavano? Beh, Cinecittà, costantemente a Cinecittà ne avevano costruito uno e poi lo hanno riutilizzato, lo riutilizzavano per le stesse parole. Io ricordo che per anni da bambino passa sul raccordo, si dà un cavallo di Troia gigantesco. Beh, c'è ancora il Ben-Hur, c'è un Ben-Hur gigantesco che sta al lato di Cinecittà, che è rimasto a imperdura memoria di questo. A proposito di questo, c'è un il Ben-Hur del 1925 fatto dalla Metro Goldwyn Mayer, che fu il primo grande colossal fatto dalla Goldwyn Mayer, fu girato a Roma. La loro idea era di lanciarsi a Roma. E io ho un aneddoto su questo, perché mi disse Fraschetti, che è un direttore della fotografia che ha 90 anni, che suo padre era operatore su quel set. E loro, allora, innanzitutto cominciò la deportazione di massa delle comparse, avevano bisogno di gente con la barba, e quindi a Roma in quel periodo, in quegli anni 20, chi aveva la barba dice: ma che fai, è il cinema che c'ha la barba? E soprattutto bisognava fare ad Anzio una scena di battaglia navale. Allora gli americani hanno detto ai romani, comparse romane: ma voi sapete nuotare? Siete sicuri che sapete nuotare? Perché adesso noi diamo fuoco alla barca e voi dovete poi, insomma, scappare. Sì, sì, tutti per il cestino, famelici. Ecco, diciamo che gli italiani non sapevano nuotare fino a un 15-20 anni fa, nessuno sapeva nuotare. Certo, allora vennero portati tutti quanti al largo e si dette fuoco alla barca. Allora, ovviamente sì, la fame era tanta, ma anche la paura di affogare era tantissima, quindi... E si narra che rimasero attaccati a questo relitto fiammeggiante fino all'ultimo momento, quindi i pescatori ripescarono gente sotto shock, con i visi bruciati, fuligginosi per lo shock, appunto, era tutto molto realistico. Quindi rischiavano veramente la vita. Sentiamo Angelo, anche lei ha rischiato molto per imitare questi film. Sì, signor Nicoletti. Che è successo? Infatti mi ha fatto ritornare bambino. In pratica, al mio paese dove sono nato facevano i film. Che paese era? Calabria, Vibo Valentia. A Vibo Valentia. Un paesino lì vicino. Era un set di film Peplum. Sì, sì, infatti facevano il film contro la parete della chiesa. Mettevano il lenzuolo e facevano i film. E noi dopo il film già... proiettavano i film, ho capito, pensavo fosse sì, un sì, set. Sì. No, così. E poi dopo che finiva, noi ragazzotti facevamo a chi riusciva a portare più sedie... No, perché noi portavamo la sedia da casa per andare a vedere il film lì nella piazzetta. E poi si giocava con delle pietre, si sollevavano le pietre, una volta una si è sfarinata, si è rotta da un lato e l'ho presa in testa. Mi sono fatto un punto. Giocava a fare Ercole, Maciste, Ursus. Sì, erano i giochi che potevamo fare noi ragazzi, ecco. Ecco, perché si imita, è vero allora quello che stiamo dicendo noi, che la proiezione nei comportamenti di chi vedeva questi film cambiava. Botte come facevano a botte gli eroi di quei film a lì. A botte tutti i giorni, perché sì, ma è normale. Per farsi vedere chi era più forte, poi prendevamo botte tutti, poi alla fine si giocava, eravamo tutti amici, solamente per farsi vedere il momento. No, per farsi vedere che eravamo chi era più forte. Comunque quindi, era divertente. Quindi lei ha rischiato la commozione cerebrale per imitare Ercole sollevando una pietra. Sinceramente, si è sfarinata, si è rotta, l'ho presa proprio in testa e mi sono fatto un bel buco. Grazie. Ferni, sono io. Ferni, sì, scusi, buongiorno. Ferni, eccola qua. Ferni. Buongiorno. Che è successo? Il tema è ottimo, stupendo, perché io ci sono proprio passato, diciamo, su questo tema, cioè Ercole, Maciste, Ursus, no? Ronald Scott, insomma, voglio dire... Ecco, lei da dove diciamo, aveva l'osservatorio privilegiato? Perché l'ascoltatore prima era in Calabria, lei da dove, per far capire che è un fenomeno nazionale? Sono sull'argine, sono sul grande fiume. Quale sarebbe? Mississippi. Ecco. Mississippi. No, il Mekong. Mekong, qual è? Veramente. Qual è il grande fiume? No, lo dica, non lo so. Qual è il grande fiume? Il grande fiume Po. Ah, sul Po. Sì, e mi sto godendo una bella giornata di sole. E mi sto Quindi dalle Alpi alle piramidi Ercole era un elemento unificante. Oh, signor, però c'è un fatto da dire, no? Io ci sono passato anche nel senso che un mio amico, no? Avendo il papà meccanico, abbiamo preso un'asta, no? E poi abbiamo messo i pesi. Ah, faccio, lì, per fare culturisti. E lì abbiamo sviluppato il nostro corpo, no? le braccia, cioè voglio dire tutto quello che doveva diventare come macista. Cioè con due cerchioni di automobile. Sì, mettevamo tutti i cerchi, tutti attaccati, fatti su misura, bene. E la gente ride, ma allora mica c'erano le palestre con le macchine appunto, come oggi? Appunto, la gente si arrangiava. Esatto, proprio così, cioè proprio per diventare come loro. Gliene posso dire una ancora più rozza? Ne posso dire una più rozza ancora? Allora, sì. Bastone, due fustini del Dixan si riempiano di cemento, si faceva solidificare il cemento, era un'altra sorta di bilanciere. No. Ah, ben certo. Ho visto anche questo io, nella mia fortunata fanciullezza. Pur che ci fosse del peso per sviluppare i muscoli, il torace, voglio dire, le spalle, ma il bello era anche che tutto questo era per conquistare le ragazze, né? Sì, questo era il fatto. Nell'illusione. Perché proprio, insomma, comunque qualcosa c'era, perché lo sviluppo dei muscoli, no? C'erano. E questo piaceva con la barbetta, i capelli lunghi, allora, insomma, c'erano, no? E quindi facevamo una figura. Io ero Ercole e il mio amico era Maciste. Insomma, ci chiamavano proprio così. Né? Ercole Maciste? Sì, veramente. E camminavate con le braccia discostate da. No, ma cavoli, no, ma. Come culturisti. No, ma esatto, ma si vedeva, né? Ah, ma quindi avete fatto seriamente dell'attività fisica, non è per scherzo? No, noi l'abbiamo fatta veramente a quell'epoca. Per copiare, ma quando si andava a vedere quei film lì eravamo gasati. Sì, c'erano dei simpatici opuscoli si vendevano le stazioni. C'era il metodo John Vigna, che era un famoso americano che faceva vedere questo signore, spiegava la ginnastica per avere i muscoli. Tutti l'abbiamo comprato. È logico, sì, ma a noi, ad esempio, dopo poi piaceva tutto, cioè quello che, ad esempio, anche Anthony Quinn quando spaccava le catene, no? Nel film, per noi, insomma, vedere queste cose qua era. E beh, quello che poi faceva Zampano nella strada. Esatto, proprio questo, esatto, non mi veniva il titolo del Zampano, esatto. Cioè il rompere come faceva Ercole, come faceva, no? Cioè quando spaccava, tirava giù le colonne, veniva giù tutto il tempio, per noi era un qualcosa di fantastico, cioè ecco, Sanzonda, lo stesso Fellini, lei ha citato la strada, lo stesso Fellini è stato influenzato moltissimo dai peplum, dai primi peplum che aveva visto, e dal circo, sono state le sue matrici originali. Ma anche nella Dolce Vita c'è un personaggio, certo, l'americano che arriva e che sta girando un peplum a Roma, appunto, con quella barbetta da Nerone, un po' una barbetta neroniana, quel pizzo di cui parlava l'ascoltatore. Melog 2.0. Armi di Tebe! Soldati! Richiamati! Riformati! No, i riformati no! I riformati no! Quelli restino a casa! Popolo di Tebe! Lo sai tu che la guerra comporta tanti sacrifici e ogni genere di privative. È arrivato il tabaccaio? No! Non è arrivato il tabaccaio. Non si fuma. Zitto, vai avanti. Dunque, Tebani? Tebani? Giornali? Sì, da viaggio. Ma che stai, nella stazione? Che so. Ma come lo fai? Sto zitto. Vai avanti. Tebani, abbiamo lance, spade, frecce, mortaretti, ricchi dracche e castagnole. E con queste armi potenti, dico armi potenti, noi spezzeremo i neri. A Maciste e i suoi compagni, a Rocco e i suoi fratelli. Questo è Toto Kamen, è Toto, figlio di Tutankhamon, qualcosa del genere. Figlio di Ammon, sì. Sì, che arringa la folla. È una rilettura satirica chiarissima. Io penso che sia uno dei pezzi comici più belli mai sentiti. Qui c'è l'impasto fra burocratico, lessico mussoliniano e mitologia del peplum, tutto mescolato con la sapienza di un grandissimo Totò, ma un immenso Nino Taranto che gli fa da contrappunto con una perfezione, una orologeria perfetta. Taranten Kamen, che in apprensione continua, perché loro sono due celtroni in questo mondo di mitico. Infatti ci sono i controcampi, mentre ci sono loro due, ci sono anche i controcampi presi da chissà quale Cleopatra, del dio Ammon dorato, gigantesco. Quindi infatti, rubavano fotogrammi, scenografie, rubavano tutto, proprio come i due celtroni, Totò Kamen e Taranten Kamen. C'era questo senso della fame, della celtrona, immagine però sublime. E il loro nemico era Maciste, che invece era l'eroe degli altri. Sì, sì, anche lui sottratto, Samson Burke, sottratto ai film autentici, ai peplum autentici. Che... Non so se l'hai colto, io almeno ce l'ho detto così, quando dice spezzeremo le reni anche a Rocco e suoi fratelli. Sì, sì. Era una sorta di sberleffo nel cinema cosiddetto neorealista impegnato. Ecco. Il coevo cinema colto, però, che appunto però era finanziato poi da questi film stessi, perché sappiamo benissimo... È come che... Cinepanettoni adesso, la stessa cosa. Sì, cioè l'organismo che... La cinghia di trasmissione che finanziava il cinema colto erano poi i cinema popolari, i film popolari che poi incassavano tantissimo. Gennaro, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Allora, io chiamo da Napoli, ho 50 anni e questa mattina lei mi ha fatto ricordare appunto quando mia nonna, dopo la scuola, finite le scuole, ci portava, me e mio fratello, al cinema. C'erano le cosiddette mattinate e in pratica si pagava pochissimo, insomma, non ricordo, 10-15 lire. La nonna portava diciamo il pentolino con le polpette e quindi vedevamo... Con la pasta asciutta e le polpette? Le polpette, sì, la pasta asciutta. E era, qui a Napoli c'era un, dove abitavamo noi, a Fuorigrotta, c'era un cinema dove, insomma, un pidocchietto, così lo chiamavamo. Cioè il pidocchietto. Esatto. E quindi vedevamo una serie di film, praticamente dalle 9 fino a mezzogiorno, fino a l'una, appunto film storici e soprattutto film mitologici. E quindi appunto e mangiavate la pasta asciutta sulle ginocchia? Sì, mangiavamo la pasta asciutta al buio e la nonna insomma ci portava da bere e quindi diciamo che da qui è nata questa, diciamo, poi anche la mia passione per, posso dire, per la Grecia, un po' per la cultura classica. Paradossalmente, quindi vi dà atto che alla fine una funzione didattica ce l'avevano, pedagogica? Sì, secondo me sì. E volevo dire, poi quando tornavamo a casa... Io c'ho un figlio che si è messo a studiare il liceo classico, quindi appassionato di greco e latino, perché ha giocato per anni con Lara Croft e vuol fare l'archeologo, quindi si è cominciato... In effetti per percorsi strani, sghembi, si arriva molte volte ad acquisire strumenti reali e concreti di cultura. Io sono assolutamente, non ho puzza sotto il naso. Sì, perché erano anche le ambientazioni che erano affascinanti. Poi all'epoca non c'erano questi grandi effetti speciali che oggi si vedono, per cui però anche quelli che allora si mostravano erano abbastanza realistici. Diciamo che io ero appassionato. L'appagamento sensoriale che oggi dovrebbe dare il 3D con gli occhialetti polarizzati ve lo dava la pasta con le polpette create sulle ginocchia. E poi volevo aggiungere, quando poi tornavamo a casa con i ragazzi, ecco, ripetevamo anche noi le gesta di questi eroi, come hanno detto molti ascoltatori. Noi però qui facevamo addirittura una cosa un po' più cruda, se posso dirla. Facevamo la chiamiamola pretiata, cioè praticamente facciamo due bande e poi dopo ci lanciavamo le pietre. Ah sì, e sì, quindi, la sì, sassaiola, lanciamo... certo, è chiaro. Quindi praticamente c'erano feriti e compagnia bella. Beh, però comunque vi spiegava quali erano le durezze. Massi veri, non di polistirolo, non erano effetti speciali. No, erano sassate vere. Però questo è interessante perché la sfera onirica che riusciva a ricostruire questo cinema accendeva delle suggestioni. Magari non c'era il rigore filologico della ricostruzione storica, però forse un frammento di suggestione arrivava a cogliere e emozionare le persone. Anche c'era un uso del theremin che abbiamo citato dal punto di vista musicale. Sì, questa musica spaziale antica. Sì, perché bisognava ricostruire una musica di cui non si hanno naturalmente né partiture né testimonianze. Quindi si usava il theremin, che è questa sorta di onda elettrica, oppure molta cetra, molto flauto di Pan, molte percussioni. E poi c'era sempre questa danza dei sette veli, che era il momento più alto del film, naturalmente. Queste voci melodiose femminili, queste voci stentoree maschili, tutto era atto a ricreare comunque una sfera assolutamente surreale, il sorvoltamento del reale, però è di grande fascino. E quindi... Franco, buongiorno. Sì, buongiorno. Voi che facevate? Noi si emulava la... Dove? Innanzutto dove? A Ferentino, allora Ferentino in provincia di Frosinone. Siamo attraversando tutto lo stivale, vede, con la suggestione dei peplum. E cosa facevate voi? Noi si andava a vedere questi film di Maciste, Ercole, poi quando è venuto Ursus, e poi si emulava nella lotta. A me mi è rimasto impresso, mi avete fatto ricordare un aneddoto che si è verificato il giorno della prima comunione. cioè che ad un tratto per premio lì a Pesenio c'erano ancora si andava la sera all'Arena Vascello, Arena Vittoria, e per premio, perché in quel periodo non è che ci facevano uscire la sera con ancora il bracciale con il santino attaccato dalla prima comunione. Andavamo lì e quella sera mi fecero diciamo mi fece il regalo di mandarmi a vedere un film di sera, perché in effetti poi siccome la luce era quella della la luce del cielo, quando diventava scuro chiaramente allora aprivano questi cinema, e io mentre stavo vedendo un film di questo feci a lotta con un altro che era, non mi ricordo se il film era proprio Maciste contro Ercole, e feci a lotta con l'altro e rientrai a casa con il vestito della prima comunione rotto, insomma. Allora mi avete fatto ricordare questa sacrilegio, questa, però in effetti dava l'idea comunque di questa contaminazione fra culto ufficiale e rituali pagani che venivano poi ufficiati nei rapporti fra gli altri ragazzi. Mio padre che ha vissuto esperienze analoghe legate ai Peplum raccontava che loro ne parlavano poi anche in campagna mentre raccoglievano le olive per mesi dello stesso film, cioè rivivevano, c'è cioè una riviviscenza di questi film protratta dentro di sé per lungo tempo. Così rincompensate i sacrifici fatti per voi, ritirate, dimostratevi uomini, e domani Roma rinascerà più bella e più superba che prima. Bravo, grazie. E questa è l'imitazione di Petrolini, di Nerone, che poi in fondo è un altro tipo di lettura, ma l'immaginario è sempre lo stesso. Questo appunto, Petrolini crea, inventa questo Nerone legandosi alla parodia dei primi Peplum, quelli fatti da Pastrone e altri, e prefigura il Mussolini che verrà, perché il Nerone è Mussolini. Infatti Mussolini lo andava a vedere in questi anni, e dopo, quando il Nerone diventerà una parodia dei suoi discorsi con questa invenzione di neologismi che affascinavano il popolo, non censurerà mai Petrolini, perché poi il ricordo dei suoi ricordi giovanili, della sua memoria giovanili. Lucia, ultima ascoltatrice che interviene questa mattina, però è importante perché anche le donne imitavano il peplum. Lei che cosa faceva? Sì, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Questa mattina devo dire è una mattinata simpaticissima, perché io la seguo da moltissimo tempo, almeno da 6 anni, perché appunto sono 6 anni che ho smesso di lavorare e quindi sono una sua affezionatissima ammiratrice. E questa mattina lo sono in maniera particolare, perché mi ha riportato ai tempi della mia infanzia. E cosa faceva? In un paesino oggi molto famoso grazie al santo San Giovanni Rotondo, mio padre era la maschera di un pidocchietto, e quindi io e i miei fratelli non ci perdevamo nessuno di questi film. E lei? E io, e quando si tornava a casa, siccome io ero la maggiore di tanti figli, tutti maschi, e io dovevo giocare con i miei fratelli. Era l'unica schiava. Io interpretavo la schiava che doveva essere liberata. E allora ovviamente non portavo chiaramente i tacchi perché ero bambina, e mi mettevo le scarpe di mia madre per sembrare alta, per atteggiarmi a, diciamo, che ne so, Moira Orfei, ecco, queste donne. Ah, Moira Orfei, certo, nell'immaginario qualcosa. Sì, Liana Orfei, oppure... E i suoi fratelli facevano a botte chi vinceva? La Gabel, e quindi, e allora nel camminare, chiaramente, avendo il piede piccolo, rompevo i tacchi delle scarpe di mia madre, la quale poi, quando se ne accorgeva, me le suonava. Quindi alla fine vede che anche lei mi conferma che la visione belluina, eroica e sanguigna di questi film... E creava una sorta di iniziazione guerriera sia maschi che femmine, che si scannavano di botte, si tiravano pietre in testa e mettevano le sorelle sui trampoli, che già era un primo segno della loro emancipazione che sarebbe venuta da lì a pochi anni. Grazie Giuseppe Sansonna, grazie Fabrizio Intonti, a Valerio Rocchetti, e ci sentiremo domani per un'altra esaltante puntata. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.